La politica alla prova. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. La politica alla prova parte oggi dalla giustizia, dalle nuove tensioni tra Partito Democratico e Popolo della Libertà. Alla base delle polemiche le parole del capogruppo al Senato del PD Zanda, che rilancia l'ipotesi di incandidabilità di Berlusconi. Zanda all'Avvenire spiega: secondo la legge italiana Berlusconi, in quanto concessionario di frequenze pubbliche, questo lo aggiungo io, non è eleggibile, ed è ridicolo che l'ineleggibilità colpisca Confalonieri e non lui, dice Zanda. Quanto al Cavaliere, futuro senatore a vita, l'esponente PD chiude la porta a questa ipotesi. Chiediamo allora ai nostri ascoltatori al 349-238-6666 se la tesi di Zanda secondo voi ha un fondamento, se Berlusconi deve essere considerato ineleggibile o meno, o se quella di Zanda è una polemica strumentale al momento politico, anche alle difficoltà interne al Partito Democratico. Per il Popolo della Libertà quella di Zanda è sicuramente una provocazione che può avere anche conseguenze sul governo. Se il PD vota l'ineleggibilità si va tutti a casa, ricorda il senatore PDL Matteoli. Ma la posizione di Zanda trova sponda nel Movimento 5 Stelle. Sentiamo allora l'onorevole Gianluca Vacca, che parla di questo ma anche di legge elettorale e di IMU. Il PD rilancia, ma ricordiamo che noi siamo stati chiari su questo versante da subito. Abbiamo detto il giorno dopo l'elezione, avremmo detto che avremmo votato per l'ineleggibilità di Berlusconi, perché c'è una legge e le leggi vanno rispettate assolutamente. Dal 57 che c'è questa legge, il problema è che il PD adesso, una parte del PD dice di voler applicare la legge, ma vedremo se lo farà realmente, perché c'è un problema oggettivo di credibilità di una coalizione che non sta sinceramente, non si regge. Si può fare qualcosa velocemente per la legge elettorale? Ma noi, come abbiamo sempre detto, valuteremo le varie proposte, stiamo ragionando sulle nostre proposte, abbiamo già presentato per una proposta sull'indicazione dei candidati, quindi il ripristino delle preferenze, e sul sistema elettorale nel suo complesso se ne dovrà discutere, perché comunque tornare alle elezioni con questa legge elettorale sarebbe sicuramente un altro dramma come quello abbiamo vissuto in queste settimane. Vigilia del Consiglio dei Ministri su IMU e Cassa Integrazione, qual è la posizione del Movimento? Ma ovviamente la Cassa Integrazione è un problema sociale, vanno trovati i soldi. Il discorso è che non possiamo continuare a vivere a cercare i soldi per la Cassa Integrazione. Qua bisogna ripensare allo sviluppo, alla ripresa, perché se non possiamo finanziare per decenni la Cassa Integrazione e sperare che i soldi non finiscano. Prima o poi i soldi finiranno, stanno finendo. Quindi bisogna intervenire anche su prospettive di medio e lungo periodo. È qui che noi ci chiediamo che questo governo, che d'Italia vuole disegnare. È un'Italia ancora basata su vecchi schemi o vecchi modelli di sviluppo, o un'Italia che vuole puntare una nuova forma di sviluppo? Su questo ci dobbiamo confrontare, dobbiamo vedere con le altre forze politiche. Sull'IMU? Sull'IMU l'abbiamo sempre detto, l'IMU va rivista, abolire l'IMU così tout court è una spot elettorale, va rivista, bisogna vedere a chi eliminarlo, ovviamente dando priorità alle fasce deboli, alle attività industriali e artigianali, che sono quelle che sono più penalizzate proprio da questa tassa che gli sta falcidiando, quindi intervenire su quelle criticità maggiori che sociali. Queste dunque le parole di Vacca del Movimento 5 Stelle. Il Movimento di Grillo si dice pronto, l'abbiamo ascoltato, a votare per l'ineleggibilità di Berlusconi come auspicato da Zanda del PD. Allora sono arrivati tanti vostri sms, Zanda è folle, dice Michele, o forse vuol far saltare il governo e tornare al voto. Giulio scrive: è giustissima la tesi di Zanda, sì, cosa buona e giusta, Antonia da Venezia. Il dibattito ruota intorno al tema della giustizia. In questo momento leggo sulle agenzie la presa di posizione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati sugli ultimi ultimi accadimenti relativi alla giustizia. Parla il presidente dell'ANM Rodolfo Sabelli: siamo contrari a interventi che tocchino condizioni, modalità e tempi delle intercettazioni, e questo è un nodo importante delle ultime ore. Ed ancora Sabelli ritorna agli attacchi degli ultimi giorni del PDL alla magistratura e dice: mi sarei aspettato una reazione un po' più compatta, ferma e corale dalla politica e dalle istituzioni. Così Sabelli, presidente dell'ANM. Abbiamo ascoltato Vacca nelle sue ultime frasi, ha parlato anche di IMU ma di legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua posizione: valuteremo le proposte quando ci saranno in Parlamento. Chi ha le idee chiare invece su questo tema della legge elettorale è il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti del PD. Ascoltiamo. Io penso, come ho detto, che la legge elettorale vada disaccoppiata, diciamo, deve esserci una riforma che ci metta al riparo dalla possibilità di andare a votare col porcellum, e contestualmente, se poi nel percorso delle riforme costituzionali si arriva a fare effettivamente le riforme, che sia il semipresidenzialismo o qualunque altra cosa, può essere benissimo che si faccia una nuova legge elettorale che sia molto più omogenea a quella. Quello non può essere l'alibi però per far sì che il lungo processo delle riforme costituzionali, che per proprio materia costituzionale ha tempi e modalità diverse, consenta di fatto di non modificare il porcellum e quindi imponga di riandare a votare con questa legge elettorale. Quindi io ho fatto una proposta di convocazione straordinaria della Camera che dia mandato agli organi della Camera di fare una sessione straordinaria della Commissione Affari Costituzionali che da subito esamini le proposte per ritornare al Mattarellum. Una volta acquisito quello, possiamo tranquillamente andare avanti con tutto il resto. Se si fa un'altra legge elettorale va benissimo, se non si fa non si vota col porcellum ma si vota col Mattarellum. Perché non si può fare un decreto che comunque elimini l'attuale porcellum? Il tema è discusso, insomma, sono molti costituzionalisti che sostengono che la materia elettorale sia una materia prettamente di pertinenza parlamentare e non del governo, dove il governo è un po' spettatore, diciamo. Io sono anche abbastanza d'accordo con questo. Il problema è che però il Parlamento deve assumersi la responsabilità di fare questo. Se poi usa l'alibi che problemi politici, il governo, per non fare nulla, ci troviamo esattamente come abbiamo fatto nella scorsa legislatura e torneremo a votare col porcellum, con un danno non solo per le materiali conseguenze che questo comporta in termini di governabilità, ma anche per la credibilità della politica. Partito Democratico alle prese intanto con la fase di fatto già pre-congressuale. Veltroni si dice pronto a dare un suo contributo, Chiamparino altrettanto. Renzi ha visto il premier Letta. Su quanto sta succedendo nel PD sentiamo ancora Giachetti. Io ho già detto chiaramente che sono assolutamente favorevole, nel senso che Chiamparino è sicuramente tra le persone che hanno sposato e portato avanti insieme a Walter Veltroni il progetto del Lingotto, che è l'unica cosa che io penso abbia ragione ancora pensando del Partito Democratico, quel progetto originario, che non significava soltanto ex DS e ex Margherita, ma significava un soggetto nuovo con tanta gente che provenisse anche da altre esperienze, con la vocazione maggioritaria. Se ovviamente Chiamparino fosse disponibile, io penso che sarebbe uno dei migliori interpreti di quel progetto che a me interessa. Contemporaneamente tutti sapete che io sono assolutamente convinto che il futuro per la premiership è quello di Matteo Renzi, e credo che sia il futuro anche per questo paese e per la possibilità che il centrosinistra finalmente diventa vincente. Ora importanti queste intanto per la definizione delle misure che saranno domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Parliamo di IMU e di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Per i dettagli economici vi rimando a Focus Economia in onda dopo le 17. Possiamo dire che per l'IMU ormai si va verso una sospensione della rata di giugno solo per la prima casa. Per i capannoni industriali l'esecutivo interverrà più avanti, lo conferma brevemente e lo possiamo ascoltare il vice ministro all'economia Luigi Casero del Popolo della Libertà. Beh, la riforma del TIMU è complessa, il Parlamento e il Governo avranno un po' di tempo per cercare di intervenire e quindi, a seconda delle varie categorie, nell'ambito di una riforma, di una tassazione sulla casa, noi riteniamo che debba essere eliminata la tassazione sulla prima casa e si possa lavorare complessivamente su tutti gli altri cespiti. Ecco, chiuderei la politica alla prova di oggi tornando sulla domanda, sull'ipotesi di Zanda del PD, che ha detto Berlusconi è ineleggibile per via del fatto che è concessionario di frequenze pubbliche. L'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: Berlusconi è ineleggibile, scrive un nostro ascoltatore, il PD da sempre vuole vincere giocando da solo, scrive un altro ascoltatore, Zanda è un fallito come tutto il PD, è come fermare Maradona spezzandogli una gamba. Insomma, ascoltatori divisi sull'ineleggibilità o meno di Berlusconi per via del suo essere editore, di essere concessionario di frequenze pubbliche, tema che ci porteremo avanti anche nei prossimi giorni. La politica alla prova termina qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.